Gentili ascoltatrici e ascoltatori, in questa trasmissione prenderemo in esame coloro che non sono con Cristo. Nelle relazioni con il prossimo tutti desideriamo chiarezza e sincerità. Anche gli imbroglioni, i disonesti, abituati a mentire ed avere dei sotterfugi, dagli altri esigono trasparenza. Come non è possibile essere tranquilli mentre si cammina in una notte oscura senza luna, così non è possibile essere tranquilli e desiderare una qualsiasi relazione senza la chiarezza di un rapporto onesto e sincero. Possiamo tollerare l'ignoranza e i limiti delle persone, ma non la mancanza di trasparenza nei nostri confronti. Per questo noi condanniamo tutti coloro che non sono chiari nel modo di parlare e di condursi, sia che si tratta di politici, di amici e di religiosi. Questo sentimento di volere rapporti chiari, aperti e sinceri non nascono all'improvviso e senza ragione dal nostro essere, ma ci sono stati profusi dal nostro Creatore, che ci ha fatto sua immagine e somiglianza. Il Dio Trino dei cristiani ha sempre voluto da uomini e donne onestà e lealtà in ogni cosa, ma soprattutto esige la massima trasparenza nei suoi confronti. Molti conoscono nella Bibbia parecchi brani che parlano dell'amore di Dio, ma pochi conoscono o ricordano anche le parole dure che Gesù rivolse a chi aveva posto fede in Lui. Si potrebbe obiettare che queste persone forse non avevano creduto in Cristo, ma Gesù si sta rivolgendo ad una chiesa e specificatamente alla chiesa di Laodicea. Ecco il suo rimprovero. E all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi: io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti, e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio, affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Dunque, Gesù Cristo odia talmente tanto la tiepidezza da rigettare, come nell'atto di vomitare, chi è tiepido in quanto ha zelo. Proprio perché Gesù non tollera la via di mezzo per quanto riguarda la sua persona, ha sempre parlato in modo che la gente non fraintendesse le sue parole. In un'ennesima discussione con i religiosi del suo tempo, Gesù fece una tale affermazione che ancora oggi rimbalza tra le mura di ogni luogo religioso, affermazione che potrebbe sintetizzare e chiarire una volta per sempre cosa lui pensi della tepidezza e della via di mezzo nell'ambito della fede. Ascoltiamo. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Sono parole queste che non hanno bisogno di essere commentate e neppure di avere paura di interpretarle. Anzi, se c'è una difficoltà, sta proprio nella fin troppa chiara evidenza delle parole proferite da Gesù. Gesù ha detto che la sua persona non è negoziabile, non deve essere presa alla leggera, non deve essere un riempitivo religioso, ma egli deve essere preso sul serio al punto che chi non è con lui deve rendersi conto di essere contro di lui. Gesù non ha asserito che per chi non è con lui l'importante è non avere nulla contro, né che essere contro Cristo significa fargli guerra, ma piuttosto ha messo in evidenza che nei suoi confronti non può esservi neutralità. O si è per lui o si è contro. Non vi sono mezze misure. Ma cosa vuol dire essere con Cristo? Non vuol dire certamente simpatizzare con ciò che ha detto o essere d'accordo con lui. Non vuol dire neppure leggere la parola di Dio, andare in chiesa, appartenere ad una religione con principi cristiani o fare delle opere buone. Essere con Cristo non vuol dire nemmeno provare piacere di ascoltare la parola di Dio o provare soddisfazione di parlare di Lui. Molti religiosi fanno questo. Anche il re malvagio Erode ascoltava volentieri Giovanni il Battista, ma alla fine, posto di fronte alla scelta tra la sua reputazione e la vita di Giovanni, scelse di far morire Giovanni. Perciò non è così facile essere con Cristo, proprio perché simpatizzare con ciò che ha detto, essere d'accordo con Lui, leggere la parola di Dio, andare in chiesa, appartenere ad una religione con principi cristiani, fare delle buone opere, provare piacere di ascoltare la parola di Dio o provare soddisfazione di parlare di Lui, sono le conseguenze di essere con Cristo. Per questo alcuni si confondono di essere dalla parte di Cristo solo perché hanno comportamenti simili ai cristiani. Ma come sporcarmi di farina non fa di me un mugnaio, così comportamenti cristiani non fanno di un pagano un cristiano o di un indifferente uno per Cristo. Essere con Cristo è molto di più che compiere la sua volontà, perché ogni giorno tutti compiono la volontà di Dio. Quando le persone atee o indifferenti verso Cristo e il suo regno hanno comportamenti onesti, quando compiono del bene verso il prossimo, quando sono di esempio in certe virtù cristiane, non stanno forse facendo la volontà di Dio? La volontà di Dio non è forse fare del bene al prossimo, essere onesti e praticare le virtù cristiane? Eppure, nonostante questa condotta giusta e buona, essi non sono dalla parte di Cristo. Proprio perché essere dalla parte di Cristo è più che una condotta, anche se il valore della condotta è fondamentale, è indispensabile che prima di tutto siano impegnati il nostro cuore, la nostra volontà, tutto il nostro essere. Non si può essere dalla parte di Cristo se prima non lo si è riconosciuto quale Salvatore e Signore della propria vita. Gesù Cristo non è venuto dal cielo per fare una passeggiata sulla terra o per dire agli uomini di essere buoni e di vivere in pace fra di loro, ma egli è venuto per morire in croce affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Gesù non è venuto per risolvere i problemi sociali, anche se questi vengono di conseguenza rivolti per chi crede in lui, ma è venuto per risolvere il problema dei problemi, cioè la salvezza delle anime. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Così, chiunque accetta Gesù Cristo quale Dio e padrone della sua vita, egli passa dalla parte di Gesù, è con Gesù. È questa la ragione per la quale la parola di Dio spesso invita le persone a scegliere la vita, cioè Cristo. Ecco un esempio che troviamo scritto nel libro del Deuteronomio. Ascoltiamo. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché possa vivere tu e i tuoi discendenti, e possa amare l'Eterno, il tuo Dio, ubbidire alla sua voce e tenerti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e la lunghezza dei tuoi giorni. Gesù stesso ha più volte invitato i suoi contemporanei ad andare con una scelta deliberata a Lui. Vogliamo ascoltare nel Vangelo di Matteo le seguenti parole. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà». Dunque, nessuna anima andrà in cielo se non per una scelta personale. Quando il Figlio di Dio disse che chi non era con Lui era contro di Lui, voleva dire innanzitutto questo, ma il contenuto delle sue parole andavano ben oltre. Gesù ha gettato un principio secondo il quale chi non è dalla sua parte come condotta di vita gli è contro. Il che vuol dire che anche se si ha accettato Cristo quale Salvatore e Signore e non si ha una condotta che difenda la sua persona, gli si è comunque contro. Essere con Cristo significa essere solo dalla sua parte. Da sempre gli uomini preferiscono mettere il piede in due scarpe, ma essere con Cristo significa ritenere che Lui sia la verità, la sola verità. È vero che altre religioni contengono aspetti di verità, ma si è dalla parte di Cristo se ogni valutazione religiosa viene confrontata con ciò che ha detto Cristo nella sua parola. Gesù Cristo è il metro morale e civile per misurare ogni altra espressione religiosa e civile. Se non è così, non si è dalla parte di Cristo, non si è con Cristo. Gesù non si è presentato come un filosofo, perché a qualcuno la filosofia potrebbe anche non interessare. Gesù non si è presentato neppure come un generale, perché la guerra farebbe orrore a molti. Gesù non si è presentato come un poeta, perché a molti la poesia non piace, e non si è presentato neppure come uno scienziato, perché è un ramo dello scibile che non è per tutti. Ma si è presentato come la verità, la vita e la via per andare in cielo. Di fronte a Lui non si può rimanere neutrali. La stessa neutralità è essere contro Cristo. Essere con Gesù significa pure essere contro la morale sbagliata, religiosa e politica di questo mondo. Un giorno ho sorpreso una donna che si era schierata dalla parte di Cristo, che pregava davanti ad una statua che rappresentava Maria, la madre di Gesù. Le ho chiesto la ragione del suo comportamento e lei mi ha risposto che dopo tutto anche Maria poteva salvarla. Ma questa è la fede dei più di coloro che si professano cristiani, ma questo è disonorare l'opera di Cristo. Essere con Gesù significa avere il coraggio di professare l'opera sufficiente di Cristo in una nazione dove Gesù è solo uno dei tanti mezzi per ottenere la salvezza dell'anima. Se Gesù è il solo Salvatore, allora dobbiamo rifiutare ogni mezzo di intercessione, quali la religione cattolica, il sacerdozio cattolico romano, i santi creati dagli uomini, altre religioni più o meno cristiane. Nonostante Gesù abbia parlato chiaro, ancora oggi milioni di persone preferiscono mettere Gesù come un accessorio nel campo della fede e nella vita, dandogli in questo modo la possibilità di evitare le sofferenze e il disprezzo di chi è con Lui. Potranno addolcire sì la loro esistenza terrena, ma per chi non lo avrà scelto come Salvatore e l'unica verità, perderà la propria anima, mentre i credenti che si vergognano di lui saranno svergognati al suo ritorno. Ancora una volta, non vi è neutralità nei confronti di Cristo, o con lui o contro di lui. A me, cari ascoltatori, non resta che incoraggiarvi a vivere pienamente per Cristo. Ciao a tutti.